nella mia città c'è una casa bianca con un glicine in fiore che sale, sale, sale su. Città, sha la la, dolce mia città, unica.